Zolt. Zolt. Fulminati in azienda. Scusa Marco, ho visto il planning del prossimo mese, ma forse c'è stato un errore in fase di battitura. Io non capisco. Ma quale errore, Schedula? Quale errore? Ci sono i mondiali, si vedono le partite, tutte. Certo, tutte quelle della nazionale. No, ho detto tutte, wey. Ma ci sono i mondiali ogni 4 anni. Io devo vedere solo le partite della nazionale. Che se non mi passa il primo turno ne vedo solo 3. Ma Marco, ma così significa non lavorare per un mese? Ma ci sono 2 partite al giorno, tutti i giorni per circa un mese. E ho capito, ma sa, la gente non le può vedere. Se mette in ferie, se mette in malattia, va in sciopero pur di vederle. Allora vi chiedo, care colleghe, volevo mandare in crisi azienda? Bravo centrifuga, bravo, sono d'accordo con te. Quindi la mail è giusta, durante tutte le partite non si lavora. Sì, ma la crisi delle vendite, basta, la riunione straordinaria, basta, la produttività, Marco. Sì, ma Marco, mi sfugge un particolare. Azienda aperta, attività lavorativa soppressa, ma è partite, non le vedevo. Avanti e indietro, centrifuga. Vieni a lavorare, torni a casa, vedi la partita, torni a lavorare. Uè, cosa devo fare io? Farti anche vedere la partita in azienda durante l'orario di lavoro? Ma scusate, ma allora tanto vale chiudere l'azienda un mese e riaprirla dopo i mondiali, scusate. E cosa credi, che io non ci abbia pensato? Uè, Fon, non sono mica scemo. Pensi che non l'abbia proposto il presidente? Bravo, Gagliardo, ma se può fare sta cosa? Eh no che non si può fare, perché a lui del calcio non gliene frega niente, capito? Lui gioca a polo, sono in 3 in tutta Italia. Mi tocca tenere aperta l'azienda perché il presidente gioca a polo. Ma gli dimostrerò io come si motivano i dipendenti. Carissimi colleghi, carissimi, carissime maestranze, grazie, grazie. Vi rubo 2 soli minuti della vostra pausa pranzo perché ci tengo personalmente a comunicarvi ad personam una decisione che ho preso, assumendomi tutte le responsabilità che il mio ruolo richiede. Ci pensavo da anni, il 2010 è l'anno della svolta. Ma davvero non sai che deve dire? Non lo so, veramente, solo che volano parole grosse. Insomma, la decisione è questa. Per tutto il periodo dei mondiali di calcio Sudafrica 2010 sarà attivo in questa mensa un servizio per vedere su un maxi schermo di 1,18 m x 16 tutte le partite di tutte le nazionali di calcio, tutti insieme, in diretta, appassionatamente! Grazie, grazie. Sì? Scusi direttore, ma è gratis? Possiamo venire tutti durante l'orario di lavoro? Tanto grazie alle maestranze e alla maestranza per la bella domanda. Naturalmente, a gratis. Tutti, dico tutti, possono partecipare proprio in orario di lavoro. L'ho fatto per voi, per il vostro bene. Per accedere alla mensa basterà portare il badge e prima di entrare rispondere a un questionario di una sola domanda. Sei felice di lavorare in questa azienda? Marta, hai capito sul pezzo? Una ne fa 100 ne inventa. Te fa vedere la partita, te mette il maxi schermo e poi te c'è in fila anche l'indagine del clima, te chiede se sei felice, Gagliardo. Sì, ma come Gagliardo la metti con tutti quelli che invece del calcio amano il tennis, il polo, il golf? Ma perché, Marta, non mi dica che non sei felice. Ma no che non sono felice, il calcio non è cool, il rugby è cool, è fashion, è fatto da uomini veri, spalle. Ah, Marta, ma non di stronzate, ma che? Ma vedi 4 bestioni che semenano, sì, e te piace? Sì. Allora sì. Guarda del wrestling, scusa. Scusate, volete sapere la verità? La volete sapere? Ecco. Dice questa verità. E sul pezzo non sapeva proprio dove recuperare i soldi per affittare il maxi schermo 18x16. E dato che io non mi perderei una partita degli azzurri per niente al mondo, cioè gli azzurri sono gli azzurri, sapete, i calciatori, Schedula, falla breve, che avete confabulato? Di? Semplice, gli ho restituito il budget che avevo per fare l'indagine di clima annuale. E bravi, e forse stavolta riusciamo ad avere un risultato positivo. Il carcio è la via, la verità, la vita. Fammi il cucchiaio e sarai il mio profeta. Hai capito? Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T